Do il benvenuto a Lucia Catalete e Dario Molinaro di Art Motel. Ciao ragazzi, bentornati ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie a te. Ciao Rachele, buongiorno. Allora ragazzi, siamo qua per parlare del progetto che partirà proprio oggi 24 novembre, i disegni di Bologna la Rossa al Museo Temporaneo Navile. Allora, la giornata parte appunto oggi, ma si svilupperà, come dire, in diversi momenti, anche con diverse modalità. Ce la volete un po' raccontare? Allora, il progetto è composito, nel senso che si compone sostanzialmente di due momenti. Si apre ufficialmente oggi pomeriggio alle 18:30, come detto tu, al Museo Temporaneo Navile, con la presentazione di Bologna la Rossa, che è il libro di Flavio Favelli, edito nel 2019 da Corraini. La presentazione sarà, diciamo, frizzante, sarà una presentazione animata, perché si baserà sostanzialmente su un talk a cui parteciperanno un po' di special guest, di personaggi. E naturalmente ci sarà Flavio, che parlerà appunto dei suoi disegni e del libro, Gabriele Tuosi, che è un curatore indipendente e project manager di Locale 2, ma il parterre non finisce qui, perché ci saranno anche Davide Conte, politico ed economista, e Fernando Pellerano, che è un giornalista del Corriere della Sera e un volto noto del giornalismo di Bologna. Ma, come dicevo, il progetto non si esaurisce alla presentazione del libro, giusto Dario? Sì, perché oltre la presentazione del libro, che ci sarà, come diceva Lucia, questa sera, ci sarà una mostra con disegni del libro appunto di Flavio Favelli, e in più un'altra parte della mostra con disegni di una giovanissima artista, 19enne, 20enne, Margherita Borghesi. Questo sempre per andare incontro alla nostra missione, che è quella di creare un confronto tra artisti affermati e artisti giovanissimi. Vi volevo chiedere un po' come sarà possibile accedere sia alla mostra, se durerà nel tempo, sia all'incontro che ci sarà appunto oggi. Allora, la mostra appunto viene aperta oggi, quindi l'inaugurazione, la grande inaugurazione oggi alle 18:30, però si tratterrà al Museo del Navile fino al 4 dicembre. Sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 15 alle 19. Dal lunedì al sabato. L'ultimo sabato sarà il 4 dicembre, quindi dalle 15 alle 19, naturalmente è obbligatorio esibire il Green Pass anche per questa sera. Quindi sì, la mostra sarà lì fino al 4, noi saremo lì nei pomeriggi, quindi chi vuole venire verrà ad incontrarci e niente, vi aspettiamo. Sì, ci potete contattare sui canali social oppure alla nostra mail. Sì, sì, noi siamo presenti su Facebook, su Instagram e naturalmente potete scriverci anche a info.artmotel@gmail.com. Perfetto ragazzi, vi volevo solo chiedere anche come è nato questo progetto, da dove vi è venuta l'idea e insomma come mai avete deciso anche di farvi ospitare al Museo Temporaneo del Navile. Sì, in pratica l'idea è nata da Flavio, nel senso che è Flavio che ci ha contattati quest'estate chiedendoci di presentare il libro. Noi gli abbiamo fatto questa specie di controproposta, che poi è diventato il progetto finale, quindi abbiamo deciso da subito di contattare Margherita Borghesi, che ci sembrava un'artista più adatta a questo tipo di progetto per il suo stile, per il suo stile di disegno, per il suo stile di vita anche, per quello che fa, e quindi abbiamo deciso di fare prima di tutto una passeggiata nei luoghi bolognesi, che sono le ambientazioni trattate nel libro, e lei ha disegnato dal vivo, ha ricostruito un po' questi luoghi vissuti da lei per la prima volta, perché lei vive a Bologna soltanto da 2 anni, magari non conosceva nemmeno queste realtà, che sono, ripeto, dei ricordi di Flavio raccontati nel libro, ma anche con delle fotografie che sono presenti sul libro. Quindi lei ha letto il libro, ha letto i racconti di Flavio e poi dal vivo ha visto questi luoghi, e quindi poi lei ha creato queste sue composizioni, ha ricostruito dei suoi racconti in base a quello che ha vissuto con gli occhi di una ventenne. Sì, questo è un libro che parla di Bologna, perché diciamo c'è un mix di ricordi legati alla storia della città, purtroppo a fatti drammatici come la strage dell'Italicus, la strage di Ustica, la bomba scoppiata alla stazione di Bologna, però diciamo ricordi che sono sullo sfondo, diciamo, e i disegni in realtà parlano anche di ricordi legati alla vita affettiva, personale, familiare di Flavio. Quindi Margherita ha assorbito tutto questo humus di fatti storici e privati e ci ha fatto dei disegni suoi, tra l'altro bellissimi, che invitiamo assolutamente a venire a scoprire oggi pomeriggio. Perfetto ragazzi, quindi non mi resta che dire che insomma ci vediamo tutti e tutte al Museo Temporaneo del Navile per la mostra, ma in generale per il progetto I disegni di Bologna la Rossa. Grazie ancora ragazzi. Grazie a te. Grazie a te Rachele e grazie a Radio Città Fujiko. Alla prossima.